basta. Ecco, devo attaccare la bombolina. Non c'è la gente che può competere con la bombolina. Lascia perdere, Giuse, che la barriera corretta non ha tenuto a me. A me la bambolina mi serve quando lo dico io, non quando lo dice Antonio o lo dice Luca. Capito? I giochi sono belli, uno vicino all'altro, da voi uno arriva alla mandriga, l'altro arriva ai punti. Dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao. Va, ciao. Prendi, bambolino. Bambolino. Cosa succede, Giuse? Che si fa tanto fumo e niente è rotto, e poi la gente se ne va. Quelle cose che hai visto stamattina, che sono più importanti del baracchino, che mi hanno da mangiare. C'ho tutta la relazione da farmi ancora. Ci sentiamo, Giuse. Eia, eia, cla, eia. Eia. Comunque, mi sa che saranno, torna problemi col capo. L'antenna ha creato problemi nel capo. Ah, l'antenna è. Eia, ti ho detto di cambiarla con l'antenna. Ora, no. Torna a buttarla giù e vedere un po'. Cosa è successo, Leoncino? Sta nuovamente uscendo basso, anche se gli abbiamo fatto quel lavoro lì a tu. Sta uscendo basso perché me ne accorgo dallo Smith. Tanto non mi segna neanche sì. Buttare giù tutto e mettiamo la gente e c'è proprio qualcuno adesso. Quando ci fai i soldi per mettere la bella che si prende, piatti quella. Claudio! Claudio! Pia! Bologna 1, Napoli 0, cambio! Grazie, io vi. Allora, l'Inter se la deve giocare stasera. Gappa! Ma gappa! Stavo dicendo, Leonci, perché quanto sole sta a Maria? 1-2. Non fa niente. Già vanno bene, dai. Cappa, vuol dire, c'è quel problema là tu, quel problema del PL, anche se gli ho fatto quel lavoro che ti ho detto, però vuol dire che c'è l'antenna che sta andando male. Se 1-2 non è esagerato, Deoci. L'importante è che non sia oltre. Se è oltre allora le cose andranno male, ma quando è 1-2 è così, dai. Cappa. Mi sento abbastanza forte, la verità, non è per sopportazione. Via, no, volevo chiedergli a Antonello come stavo arrivando. Antonello, ci sei? Buon pugno. E aspetta, facciamo entrare le scuole a casa che stiamo facendo una scala, dimmi. Ho detto, come ci sto arrivando, passo? Sì, non è finale il tuo, sei più basso di 5 dB. Cazzo, strano, eh? Sto dicendo Giuseppe, cazzo, non ti dico palle io. Allora, bisogna nuovamente buttarla giù con l'antenna e fargli quel lavoro. Niente, lo metti da tuo piatti col tuo bolino e metti la gran play, se la tocca in culo, non è più stare, non fare niente. Quando ci fai la antenna, il prossimo anno te la cambi. Cappa. Ma io la verità qua mi sembra sempre lo stesso, lo sento abbastanza forte qua la pelosa. La verità. Mi sembra che non abbia perso nulla. Qui è sceso perlomeno, tu come lo senti là? Sono sparito, ci è rimasto qua. Tutti bravi, insomma. Ma era un casino. Ma qua io 9.25 era e 9.25 arriva, non è che abbia cambiato nulla, no? Non sento molta di questa... questo calo di prestazione. Strano. Dove ci sei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. No, non sei uguale, come vi arrossano sopra, aspetta un attimo. C'ho problemi su allora. Aspetta un attimo, attacco la antenna. Cazzo, avevo ragione io. Adesso quando... avevo ragione io, cazzo. Lo so, ma tu, per me è questione di quella roba là, che ti ho detto, anche se gli ho fatto quel lavoro là, del piede, tutto quanto, e ho messo quella cosa che mi hai detto, però c'ha problemi, vuol dire c'ha problemi. Tu cosa penso di modulare? Sempre così, ma lascia perdere, guarda. Quando logicamente l'umidità lo fa, ma poi quando si asciugano va a tornare a me, bene. Lo fa anche a me appena, i miei giorni sono saliti, ma appena, un pochettino di più di ieri, che era libero, ma è normale, cazzo. Cioè, quelle non sono stazionarie, se tu mi dici uno e due non sono stazionarie, no? Scusami. Se tu mi dici 1 e 5 e 6, allora sì, cazzo, che sono stazionare, ma le due è un niente. Cioè, rendiamoci conto, dai. Adesso Pomponio ha fatto questa prova. Scappa. Vabbè, io sono in direttiva, sto ascoltando la direttiva adesso. Non lo so, non c'ho dubbio, c'ho la verità. Perché non mi quadra il segnale. Comunque, sospettiamo un po' quando... se calma la pioggia, vediamo se cambia tutto. Potrebbe essere anche la mia ricezione, il 3009 dovrebbe arrivare più forte, è arrivato anche con 3, ma se arriva quasi a 5 con la direttiva, non lo so. Per me è sempre lo stesso qua a casa mia, pure a me mi sono saliti appena stazionare, ma perché? Ma perché sta piovendo, giustamente, un po' l'umidità lo fa, Ma cazzo, ma 1 e 2 non sono stazionarie, no? Stazionarie quando supera l'1 e 5. Allora sì, a 1 e 5 sono già cominciati a essere seria la cosa. A 1 e 2 va bene, no, non è niente. No, ma lei ha detto poco fa, dice che il segnale lo smette Santiago 6. Mi ha fatto pensare la verità. Capito, di solito mi sembra che arriva a 8 o 9, se non mi ricordo male. Qua arriva forte, non c'è problema. L'umidità lo fa, può far calare le prestazioni un po'. Dipende. Però io lo sento abbastanza forte qua. La verità mi sembra sempre lo stesso, non ha cambiato. Ripeto, qualche umidità lo fa. Lo fa a me, cazzo, non lo può fare a lui. Ok. Va bene, ok. Avanti Giuseppe. Ehi, vabbè, la controlliamo domani, me la controllo domani. Se come asciuga, se fa bel tempo, me la butto giù nuovamente. Le controllo, non abbiamo fatto qualcosa in quel piede. E vediamo un po' com'è. Ti puoi fare quello dei bici, se batti quel carro il tassello di sotto tu, Se batti quel tassello, almeno ti metti il palo come si deve e ti passi l'antenna. Tanto non la tocchi più. Vabbè, adesso vediamo. Io domani sto lavorando, mattina e sera purtroppo. C'è da fare in quella scuola anche il condominio di via di Cosimo Monserrato, sono là, domani sera. E quindi non so se finisco presto o se finisco tardi, non te lo so dire, però per fare 4 video citofoni. Ma vedremo un poco. Scappa. Vabbè dai, non ti preoccupare, dai, già vediamo se il tempo lo permette, me la controllo io con calma e ti faccio lo stesso lavoro che gli ho fatto. ho capito, ma butto giù, ricontrollo il BL se non è bagnato e arrivi te, vedo un po' di vedere un po' come sono là e poi mi controllo le stazionarie. Adesso sono a 1 e 2. Lascia così, sono 1 e 2, lasciano così, che non è niente, potete dirmi. Se sono 1 e 2, lasciano così. Magari la parola che se lo dice, vendo io, inizio di stallo la direttiva, che sia quando è bagnato il cavo riceva di meno, non si preoccupare per quella. Di cosa c'è uno e due, sì. Quanto mi c'è il pensamento su che saliva Santiago 6? Lì mi ha fatto pensare. Gappa. No, perché va bene, a Bomborino siamo vicini, siamo a un schiotto, siamo vicini, per quello gli arrivo forte, però. Il controllo si controlla da cosa lontano, capito? Non dal vicino. Vabbè, comunque se le prestazioni calano anche qua, già c'è un po' di distanza, non è che sei vicino, non è che state attaccando i nocchi, no? C'è un pochettino di distanza da me. Se tu non avessi prestazioni, neppure a me calerebbe, cioè posso dire da 9:25 mi arrivi nocchi. Ma questo non è successo. Secondo me io non gli avrei toccato la dritta. L'avrei lasciata così che anda asciutta già se ne mette a posto. Rimango intorno a 1:01. Secondo me lui è un pochettino di umidità e basta, che l'ha fatto un pochettino salire. Capa, vabbè, adesso aspettiamo quando asciuga e vediamo com'è, no? A toccare adesso non la tocco, stai tranquillo. Vediamo quando asciuga come sono la situazione, capito? Ma poi ti ripeto, 1:02 è normale. Quando cominciate a darsi 1:05, allora non è più normale, come quando c'è quel problema che ne usciti e manco a rosso. Non andava proprio. Invece quello non è successo. Cioè appena gli si è accelerato, però non è successo nulla. Può essere quel cabezzino che tocca lì che appena bagnato, ma appena che si asciuga si rimette a posto. Quel cabezzino che c'è sopra dove c'è la specie di molla, può essere quello lì un pochettino umido e cosa. Però appena che asciuga si rimette a posto. E capo, la conosco pure io quella cosa lì. Lo so. Sì, vabbè, adesso vediamo un po'. Dico che quando asciuga dopo si rimette a posto. Cioè si va attorno a 1:01. E purtroppo l'umidità è maledetta. Gappa. Che buon po'. Io gliela faccio. Prendeva. Ecco show. Avanti. Oh, Antonio, buongiorno. Ciao Antonio. Non so ancora chi c'è ancora, che non ho fatto ascolto. Ciao Massimiliano, Bulldozer, buonasera. Ciao Giuseppe Leoncino, buonasera anche a te. Massimiliano, fammi un controllo, come ti sto arrivando, per favore, dammi un controllo di radio e di segnale. Radio 5 Santiago 9. Va bene, allora già va bene. È positivo, dai, già va bene, già va. Avanti, popolo. E dove sei tu? A casa solo. Caffa. E oggi andavo, dai. E io quanto t'arrivo in Chive? Segnale di 8, radio 5. Caffa, ma hai buttito, Leo? E vabbè, insomma, diciamo che io per Massimiliano Bulldozer sono più aperto, capito? Tu sei malati a fianco, io no. Tu non riesci più aperto, Leoncino. Guardate il lui. Datemi il segnale e anche la radio. Cazzo, sei forte qua, se la vado a Giuseppe, figurati tu. Cosa faccio? Cosa faccio lui? Ma non ho capito niente, c'è il segnale o non c'è? C'è, sono le 15, è passato a Giuseppe, figurati. Ah, sì, Santiago Rome. Sta facendo un taxi. La mafia adesso non so, sono 10, 15, 16. Passa tutti e due, ad Antonio e anche lui, a Giuseppe, passa tutti e due da lì a casa tua. Fuori testa, ragazzi, uno che fa 20 km da Sassari, ne scappa tutti e due. Sì. Qua abbiamo delle radio, qua si dimentica che siamo gioco a Torino, anche se ci sono poche parti qua c'è antenna anche il radio, e c'è l'antenna, quello che conta è l'antenna qua, capito? Non la radio, no. Se ne è uno che prova a tentare il barattino, scommetto se muoio con quello che supera tutto. E quello che conta è l'antenna, capito? È l'antenna, la cosa importante è l'antenna. Turbo? Avanti Giuseppe, che passa è? Lui che passa il dettore di Antonio Bombolo. Esatto, guardate che c'è un break però. Avanti break, ciao Anto. Avanti il break, avanti l'amico. Avanti il break, buonasera. Vuol dire non ha voglia, ciao Grotta, buonasera. Massimiliano, ah, intendi il casino che sta succedendo, ah, tutti sovramodulando, che vergogna. Vabbè, vabbè, quando si parla di vulcano, è vulcano. No, ma prima di vulcano, tutti in sovramodulazione, blu. Tu non facevi più il barrato. Anto, come ti sto arrivando io da te? Dici di 9.30 a radio di 5 amplificata. Gava, gava. Grotte! Dica me, ciao Giuseppe, dimmi! Al basso! Ah, Antonio, Grotte! Grotte! Mi viene a parte? Ehi, guarda, se facciamo scendere una sole o su in via Bucapesca? Quella da 4 pacchetto dell'MS. Via degli astronauti. Invece, che baracchi del buco. E come si viene ad essere segnale quanto che c'è qua in garage? Cazzo, lì, e l'altro mi passa anche due. No, negativo, c'è Leoncino che sta passando un po' di persone. No, qua c'è Leoncino e Luigi Vulcano e tutti e tre. Aspettate un attimino, attenzione all'amico che chiede il controllo, avanti, scusate un attimo. Avanti il blocco! Non rilancio, non entra, boh! Sì, l'amico. Ciao capitano, capitano tu sei? Attenzione Stefano, vieni avanti, ma non lo senti, Ali? Attenzione Stefano, avanti per il controllo, dai. Grote! Un attimo! Positivo, io lo sento lo stesso, Santiago di 7 e la radio di 2 è basso. Stefano da Baresi, se tu ascolti qua San Giovanni, Santiago 7, il segnale potrebbe anche andare, ma la radio è bassissima. Niente, niente, comunque il mic green, se ce l'hai nella radio c'è scritto qual è. Io non lo sento. Grazie. Positivo Stefano, dai, vai, fare a prova che siamo qua, non ci sono problemi, quando vuoi entra senza problemi. Avanti, Leoncino. Massimiliano, aspetta un attimino, perché tu hai avuto il San Giovanni? Come ci sto arrivando, cambio. Guarda, 9.10 a picchi di 9.20, per San Giovanni abiti? Positivo. Ma c'hai un fratello per caso che si chiama Antonio? No, io fratelli avevo uno, adesso non c'è più. Mi dispiace, è un cugino? Che si chiama Giovanni, sì. E lavora... Cosa fa? Che lavoro fa? No, non lavora. Ah no, negativo, dai. Perché... questo qua lavora in Piazza Salvatore Rui, è possibile, no? Non conosci nessuno che lavora lì. No, no, no, ma se ha lo stesso mio cognome non è mio parente. Ma tu abitavi vicino a una campagna di un certo Milis? Positivo, un pochino più giù. Papà, che c'è la scritta sul cancello? Quella mia zia, quella è mia zia. Allora, se tu stai dicendo Giacomo, che è geometra. Quindi sei parente di Giacomo, che quanto è piccolo il mondo. È mio cugino di primo grado, Giacomo, che canta col gruppo La Pillola. La pillola del giorno dopo, è lui. Tu immaginati che quel coso gliel'ha messo quando era con me, in classe con me, ai geometri. Positivo, allora ti conosce anche mia moglie. Di che anno sei tu, Antonio? 72, 72, sono più grande di Giacomo, però tu immaginati che ero il nipote di signor Melis. Io l'ho conosciuto, signor Melis, che vendeva pompe sommerse lì via Napoli. Capito, quella casa che c'è a fianco è zia Mariuccia, la mamma di Giacomo. Ma infatti nel tuo cancello, o nel cancello di tua zia, c'era scritto Villa col cognome, ma io pensavo che Antonio, quello che lavora da Melis, fosse tuo parente. Antonio sai, è mio cugino. Ma di Roger, ma il fratello dice che modulava? No, il fratello di Antonio si chiama Mariolino, e non modulava l'altro mio cugino, che tutti e tre i miei cugini modulavano, no? Però quelli lì erano parenti più a me, dalla parte mia, nel senso quello lì era coso, aspetta come si chiama, Emanuele, Tore e Nino, Nino però è morto, e modulavano tutti e tre. Sì, no, cioè Giacomo sta avendo un po' di problemi adesso con chi abita in quella campagna lì, capito? No, aspetta, scusate, questo ping pong, un secondo solo. Allora, Giacomo abita adesso 500 metri più giù di me, capito? La mamma abita 500 metri prima di me, e invece adesso Giacomo si è fatto la casa 500 metri più giù di me, capito? Io abito al centro, tra la madre e lui. Ma signor Paolo c'è sempre, sì. Signor? Paolo, rubato. Sì, sì, che c'è sempre, sì, sì. È stato un pochino maruccio, però già c'è sempre. Ma di Roger, no, e ogni tanto scendo agli punti a... C'è lo studio lì, se non sbaglio, ancora no. Sì, sì, positivo. Aspetta un attimino, che i gatti li hanno buttato in tutto. Le prendi, altro fa girare. Sì, Roger. Giuseppe, stai uscendo bene? Sì, a 9:10 addirittura, questo qua è a cristalli liquidi, comunque arrivi a picchi di 9:30, dai, con una radio buona, amplificata. Avanti l'amico che ti aveva il controllo, Stefano, se non sbaglio. Tipo, non c'è più, Antonio. Andiamo al ricordatore San Giovanni, la villetta Madoncina. Via San Giovanni, poi prima di lui c'era... Consuelo, una ragazza parlava di San Giovanni, poi a OCB comunque parlavano di San Giovanni. Vabbè, guarda, sì, Sassa è davvero grande, se ti metti a correre ti vedi le spalle. Allora Massimiliano poi c'è mio cugino, te lo dico io. Era molto amico di Tore. Cioè, è più pazzo di me quello. E comunque come la testa ci siete? No, con Diego non credo proprio ci siamo come la testa, è più alto di me quello. Tu sei parlo di Piero, cugino di primo grado, dalla parte di mamma. E Piero, cos'è, cugino di tua madre? Cugino di primo grado, per me, perché infatti è un figlio della sorella e della mamma. Ma come ancora adesso? Capito lui? Sì, avanti lì che se fuggisse potrà parenti. Allora, Lina è la sorella di mia madre, poi Piero è il figlio, in pratica, cioè, c'è Piero, Pinuccia, Marisa, Ica, e allora me la metto più. Dopodiché, comunque lui adesso è... Bastiano ci ha messo male. Bastiano ci ha messo male, insomma, già l'ho visto la scorsa, l'ho visto tempo fa, ho detto fa. Dove? Non è che se lo lasci libero, cazzo, quello se ne fuggirà dal paese, cosa mi so bene. Se l'ho visto un'altra volta, parlando in ospedale, come partiva, non so se andava contro soccorso, non vuole rincorrerlo, un gaia. Massimiliano, dico insomma, allora conosci anche mio cugino Massimiliano, a Diego. Raga, Diego Luca. Poi mio cugino, il primo grado, della fase di babbo. Cazzo, ma tuo cugino che vai? Io ci ho lavorato assieme a lui. Sarà un 4 anni fa, quando lavoravo lì con Chiaramonti. Ma è un po'. Vabbè, da qui non si può dire. Non so cosa faceva, si metteva il putto in tasca. Con la mano è pieno di grasso, quando c'è una fame, si toglieva il pane dalla tasca e se lo mangiava così, quello era più brutti. Se l'hai detto, pinghino! No, non è quello, l'hai già visto proprio, non è che sia pinghino. Io l'ho conosciuto, la verità, che era tranquillo. Poi, un po' dopo che è successo di San Giovanni, non c'era perso, quando entrava in entrava al bar, boh, sembrava che sia qualcosa, come posso fare nel bar? Allora il padre non ti faceva parlare, dimmi te, una, due, tre birra, la quattro birra, dicevo, no, io me la vado a fare, dopo io ce la faccio più, e dico, va bene, la birra, e tu non scendi la tassa e sei morto, ma tu sei tutto scemo, no, mi offendo, no, non te la nulla, mi sorprendi, ho detto, arrangiati. Quando lui faceva il muratore, suo figlio addirittura gli aveva dato la patente, e la prima notte che è stata a casa sua, si è fermato a 20 cm dalla porta del casa, cioè non ha ammazzato la madre. Allora, quando ci ha comprato la prima macchinetta, il primo giorno che l'ha ritirata è andato al bar di San Giovanni, ci ha fatto una mina quando stava rientrando a casa, il primo palo che c'era l'ha preso lui e ha distrutto la macchina, l'ha fatta a V, è entrato il palo che è quasi vicino al cruscotto, ha sbarrato tutto il motore, ha fatto la macchina a V. Sì, lo so, sto dicendo, la seconda volta che ha avuto la macchina, si è fermata a 20 cm, ma l'ha portata a me mia zia, che è quella viva. Dice, non ho visto, dice, non più, dice, mi sono spaventato, dice, ha aperto il cancello, per cassolato, gli ha aperto il cancello, e si è fermata, ha detto, 20 cm, si è portata, che quando la ammazza. Le piace un po' una tazza, ma, vabbè, non lo vuoi fare. Cosa ci vuoi fare? Le piace bene, dai. Bombolo, riprendi. Cappa. Alleluia. Saprei poco di niente che li piace la benotte, aia. Io non so come cavolo fanno, li vedo la mattina. Prima di entrare a lavorare, cazzo, cognac, anice, di tutto, di più, whisky, bevi. Cioè, ma che... uno entra a lavorare e va a rugare la binocchia, ma sto scherzando. Che gente che... Insomma, proprio per, loro è un muratore, quindi la maggior parte sono tutti così. Io ho conosciuto parecchi muratori, e beh, quando si fanno una mina, si fa la venerdì sera, poi il sabato lo stesso, non dico non bevono niente, fino a lunedì. No, non va bene così, non va bene, anche perché c'è una legge che queste cose le proibisce. Anche che non si può bere nelle cantine, di chi battami, sono cavoli amari, ma io ho visto un caso gente bevendosi 20 bottiglie di birra in 4 persone, allucinanti, cioè che si fa dai, cioè, quando tu stai lavorando devi pintare un capo, devi mettere al lavoro, lo devi mettere, non casa a capavino, cioè ma sei buffonente, sì. purtroppo è così, loro bevono, sono abituati a bere, tu figurati che quando i muratori si chiamano il picchiatore c'erano il vino prima, nelle tanchiere, bevono vino, bevono birra. Sai quante volte al sentito mi portava Marco a farmi la birra, il vino, quello che è per mangiare. Adesso purtroppo non, se ti vengono una cosa già ti licenziano, però prima era così. Mangiavi quello che c'era da mangiare, per dire la parasciuta, la fettina, ti portavi il pigiattino, ma adesso non è più così, adesso ti vengono una cosa già ti buttano fuori, i tempi sono cambiati. Quando lo dici, come ma tanto bevono tutti, no? Che c'è, come Tranviri, è uguale, anche Tranviri bevono, eppure già non sta a guidare, non c'entra niente è quello. È tutta una classe così, c'è quello che bene, c'è quello che non piace bene, il discorso è quello. Certo, se dico questo non va bene, dai, cioè, ma tutto è così, già tutti che sono sempre con un capo anche una birra. E cazzo, non va bene, non va bene, nel lavoro. Tanto ci sono arrivati due a fare un dissipare di piante. Anche perché cioè, magari si è appena alterata e cosa, magari seguendo i lavori in un posto dove c'è il principale, cioè lo patrono di dove stai seguendo il lavoro, e cazzo, le risponde appena acido, perdi tutto. Cioè, perché il bere lo fami ad essere un po' stravagante. Ma io non so questa gente come è. Riprende Massimilia. Si è spostato. No, il discorso è un po' diverso. Ricordate una cosa, no? La maggior parte della gente, cioè non è che sia tutta astemia, beve normalmente e basta, c'è quello che beve di più, c'è quello che beve di meno. C'è quello che può dire da lunedì a venerdì non ti toccano accidente e si fa il. Si prende il bene per dire il bene di notte, una zimminata e cose del genere. E il sabato. Poi la domenica è bello tranquillo, va a lavorare, e che c'entra? Non è che deve essere tutto un disgusto, no? E che c'entra? Ormai abitualmente siamo abituati così i muratori. Adesso dal lunedì al venerdì non toccano niente, il venerdì sera quando rientrano dal lavoro si fanno il giro dei circoli, del bar, e anche sabato mattina si fa la pizza, e poi la domenica non toccano niente. Mangiano tranquilli, bistecche, quello che è. E boh, e capono da quello. Ma ce ne sono che. Cioè sono invece cazzo che bevono, anche durante tutta la settimana, dopo dell'intervallo, adesso anche c'è settimana, ecco, noi ma dove siamo? Cioè, fai girare un po'. Ehi, allora, ma tu non bevi, il discorso è quello, se tu avessi bevuto non avete parlato così, purtroppo è. C'era un paese dove bevono tutti, non bevono anche in Spagna, tu hai visto ragazzi di 16-17 anni che fanno a pezzi il venerdì, sabato e domenica, quindi bevono tutti, ormai bevono tutti, ragazzini, ragazzi, persone grandi, c'è quello che è stato, non ne frega niente, c'è quello che invece è bello, il discorso è quello lì, tutto lì, ormai le cose sono quelle. Avanti! Tanto bravo segnale con questa radio nuova, cosa ti sembra? Dimmi, cambi. Cappa, se a picchi di 9:20. No, a chi non risponde al telefono? Cappa, stavo dicendo, sì. 9:20, a picchi 9:20, se va abbastanza bene. Ciao, ma mai stai dicendo a rispondere al telefono a me? No, a mia nonna. Perché io ce l'ho qua davanti il telefono, che lo stai dicendo a me, capito? No, la giusta che non risponde al telefono, gradualmente. Positivo. Leoncino! Sì, a Massimiliano. Va, riprenditela. Un attimo, 5 minuti di campo che mi devo fare una questione qua, hai capito? Riprendo dopo, là. Non ho fatto i pirelli. Io non c'ho problema, una bistecca, lì. Saluta, Leo Cimmi. Asso, che si andrà di te. Mi ha toccato la penna a me, so che tanto ti ammazzo, Leo Cimmi. No, non lo sto toccando un'antenna, devo farmi quella questione, quello che non avevo voluto fare tu, me, hai capito? Che sto usando una sezione che lasciamo perdere là. Non l'ho voluto fare io, basta portarmi a me gli ispettori, dato il possessore, voi girati la... Non so cosa, come risponderti la verità. Oltre a quello che avevo detto, devi piattare il coso da casa che lo usi. Cosa mi ha risposto? Vengo un minuto, perché ma te ce l'ho qua a casa abbandonato, allangiati, io non ti richiedo. Caffa. Dai, lascialo fare un po' di bianco, dai, sta facendo il bianco. Grote. Eccolo. Avanti il brico. Fatto il brico. Anzi, chi è? Vabbè, vai, riprendilo. Zucchine. Sì. Sì, è buono. Sì, disturbi e ti mangi anche il piatto. Io adoro la torta di mele, quello si può fare di cosa? Il vino, il whisky, quello che fanno. Adoro molto la torta di mele, mi piace troppo, guarda. Meglio così. Chi è che cucina a casa tua? Tu? Sono già due, non sono io. Cucina anche la tua signora? Un po'. Tu la hai adesso? Hola. Avanti, Giovanotti, canale 5, Italia 1, rete 4, cambi... Ascoltate il vulcano Wiki modulante col 48 modificato, cambio e passo. Come mi riesco? Sono tutti fuggiti, cambio. Ah, un attimo, ma sono già, adesso sono anch'io, un attimino che riprendo pronto.